Cuando te veo pasar de aquí, y lo que creo que te siento, Julián Ducarte, con el mare, Julián tenerte, fin a la fine. Tu viaggio son da parmi che vuoi coraggio meglio così e tempo che scorre la strada la va sento il cuore la serenità.